Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Benissimo, prontamente ritornati in diretta radio. Buona serata a tutti, sono 34 minuti primi dopo le 23, sempre Andrea al microfono dell'astronave Enterprise. Siete all'ascolto di Star Trek, viaggio nella storia della musica, una piccola puntata dedicata a Sanremo, il festival della canzone italiana. Devo essere sincero, non ho ancora seguito una puntata, lo farò sabato, e giustamente voi vi chiederete: ma questo cosa vuole fare, cosa vuol parlare di Sanremo che non lo visiona? E però io posso, diciamo così, interagire con voi mettendo su delle vecchie canzoni appunto del Festival di Sanremo, e questo è il mio scopo. Ricordiamo anche il Sanremo degli anni 80, quando il buon vecchio Pippo Baudo presentava gli ospiti impeccabile in smoking, e ascoltiamo appunto qualche artista di quel periodo che a Sanremo ha ottenuto un buon successo, che ha fatto parlare di sé e che, devo essere sincero, ci ha fatto anche ridere e divertire con la propria esibizione. Direi di partire con un artista che alla metà degli anni 80 si era imposto appunto al Festival della Canzone Italiana, era arrivato terzo, se non erro, intorno al 1984-85, non chiedetemelo perché vado a vuota libera. Sto parlando di Luis Miguel, un ragazzino che saliva per la prima volta sul palco dell'Ariston e ci proponeva questa canzone, Noi ragazzi di oggi. Lui è Luis Miguel. Noi ragazzi di oggi, noi con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ah, ma non puoi farci cedere, ah. Noi siamo il fuoco sotto la cenere. Puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere. Noi sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città e poi vedrai che ti piacerà, na na na, na na na. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai. Insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi noi sappiamo in cosa credere. Ragazzi di oggi, ragazzi di siamo il fuoco sotto la cenere. Non farti prendere, ah, da questo eterno attendere, ah. Noi siamo quello che può succedere. Non fare spegnere, E poi vedrai che ti piacerà. Na na na, na na na. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Era Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi. Un pochino il sex symbol, insomma, del Festival di Sanremo degli anni Ottanta, un giovanissimo Luis Miguel che ottenne un buonissimo successo al Teatro Ariston. E un'altra prerogativa del Festival di Sanremo è che ha lanciato veramente tantissimi artisti, tra cui ricordiamo Vasco Rossi, Zucchero, Fiorella Mannoia, eccetera, eccetera, eccetera. Però vorrei soffermarmi sugli ultimi due, Zuccheri e Vasco Rossi, precedentemente citati. A Sanremo, pensate, hanno fatto una figuraccia, diciamo pure che hanno portato forse per i giudici un brano non meritevole di successo, e se non erro Vasco Rossi con Vita Spericolata era arrivato nelle ultime posizioni, e anche Zucchero Fornaciari con Donne, insomma. Non si piazzò benissimo nel festival. Invece, per quanto concerne le vendite, sono schizzate veramente al primo posto nella hit parade, la contraddizione del sistema discografico italiano degli anni Ottanta. Uno si presentava a Sanremo, magari presentava un album che per i giudici era, lo possiamo dire, una pippa, poi invece, come si chiama? Poi invece ha ottenuto un sacco di vendite. Vabbè, le contraddizioni del sistema. Stavo dicendo precedentemente, al Festival di Sanremo non c'erano solo i cantanti, quelli insomma i classici, i grandi nomi, i grandi artisti che ogni anno proponevano il proprio pezzo, che piaceva o non piaceva, però era sempre il pezzo melodico italiano. C'erano anche degli artisti che amavano andare a Sanremo per far divertire il pubblico. Il primo sicuramente negli anni Ottanta che fece divertire molto il pubblico fu Renzo Arbore, che presentò una canzone con doppio senso particolare. Sto parlando del Il Clarinetto, che appunto Arbore presentò all'incirca la metà degli anni Ottanta. Reduce del successo di Quelli della Notte, insomma, Arbore probabilmente si presentò al Teatro Ariston così, con lo spirito goliardico e bonario che lo contraddistingue, che l'ha sempre contraddistinto nei programmi Rai, e niente, si presentò al Teatro Ariston e cantò questa canzone dal titolo Il Clarinetto, che andiamo immediatamente ad ascoltare. Renzo Arbore. Metti che ti presenti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu, filu, filu, fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzi per fare un po' filu, filu, filu, fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Grandissimo veramente Renzo Arbore, che presentò questa canzone al Festival di Sanremo dal titolo Il clarinetto. Così c'è qualche doppio senso un po' particolare, però mi ricordo che in quel periodo fece divertire molto. Io ero un ragazzo, insomma, e questo brano ha ottenuto un sacco di consensi che gli permise di arrivare al secondo posto, mi sembra. Sono dei miei ricordi, purtroppo non mi sono appuntato nulla. Mi pare che arrivò secondo con questa canzone, o secondo o terzo. Fece divertire un po' tutto il pubblico del teatro Ariston. Siete sempre all'ascolto di Star Trek, Viaggio nella storia della musica. Questa sera uno Star Trek dedicato a Sanremo degli anni Ottanta, ma vedrete che non parleremo solo di Sanremo, ma si parlerà anche di altre cose. Sono ora le 23:45 minuti primi, è arrivato il momento di salutarci. Vi presento l'ultimo brano in scaletta, poi comunque voi mantenete l'orecchio qua su questo sito, perché mi troverete ancora con altre dirette. Vi ricordo invece il mio sito personale www.startrekonline.org, lì potete andare a visitare il mio sito e scriverci come hanno fatto alcuni amici. Potete scriverci una bella mail, così, di commenti favorevoli o negativi, fate voi. C'è anche la chat in real audio, in real time, scusate, in tempo reale, se avete qualcosa da dire, se state ascoltando con il vostro cellulare potete comunicarci qualcosa, io sono quel che vi aspetto. Ultimo brano in scaletta di Enzo Iannacci, una canzone stupenda, veramente. Siamo sul finire degli anni Ottanta e Enzo Iannacci cantava, scusate, per l'appunto, Se me lo dicevi prima, brano meraviglioso, il dottor Enzo Iannacci. Se me lo dicevi prima, se me lo dicevi prima, come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Ma prima quando? Ma prima, no? Si vedono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima, ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro? Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito? E allora è bello quando tace il batter, quando ride un figlio, quando parla Gaber. E allora sputa su chi ti eroina, perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore, perché iniettarsi morte è ormai anche fuori moda, perché ce n'è già tanti che son venuti fuori. Oh, sei ancora qua? Vabbè. Quanto sei alto? 1,90. Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se non lo dicevi prima. Se non lo dicevi prima, insieme, perché noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito? Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh? Una canzone stupenda presentata da Enzo Iannacci al Festival di Sanremo, se me lo dicevi prima. Siamo arrivati al termine per questo episodio di Star Trek, la riascolteremo questa canzone perché è stupenda. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime trasmissioni. Bye bye, buonanotte a tutti. Chi è ancora lì vicino e non ci credi ancora.